Uno, Nessuno e 100 Milan, una trasmissione radio che ti fa capire che è meglio lavorare in radio che andare a lavorare. Uno, Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan con Leonardo Manera. 9 minuti, siamo qui cari ascoltatori a chiudere questa settimana di Uno Nessuno 100.000, la decima settimana decisiva per la riforma elettorale. Guardo dall'altra parte del vetro Elisabetta Fusconi, hai notizie dal Parlamento? È stata approvata la riforma elettorale? No, fa segno di no, ma ragazzi, ma cosa... Vabbè, però l'undicesima settimana, secondo me, a quel quid, a quel tocco, potrebbe essere quella decisiva, eh? Non lo so, chi lo sa? Alpino, che ne dici tu? È venerdì! Uno contro uno di Rebic che va. Rebic davanti al portiere da solo. Sì. Al centro che per succede? Samu Castillejo. Vabbè, ma... 1-0. Ma no, vedi che silenzio che ha accolto il gol. Vedi che... Ah, perché c'era il pubblico. Ma siamo secondi. Primi in Italia, secondi. Silenzio, silenzio. 9-10 minuti. Niente, niente, niente. Siamo da settimo, ottavo posto in Italia. E in Europa, chissà. Andiamo avanti così, 9-10 minuti, dicevamo, siamo qui con voi, insieme a Elisabetta Fusconi c'è Miriam Lucchetti, c'è Lorenzo Nespoli, Leonardo Manera in arrivo, virtuale o no, chi lo sa, oh, mandate il codice a Manera, comunicazione Radio Londra, il codice di Manera. Il codice di Manera, scusate, sono messaggi in codice per l'appunto. Bene, tutto a posto, la redazione ha capito, chi doveva capire ha capito. Siamo qui 800 24 00 24. Oggi abbiamo una puntata molto ricca di temi che secondo me faranno riflettere molti genitori, e, soprattutto con la storia di apertura. E insomma, non parliamo oggi, sapete, io non parlo sempre solo di Covid, anzi cerco di allargare gli orizzonti, di ossigenare un po' il cervello anche con altri argomenti, e oggi davvero ne avremo di più svariati. Vai. I will not be easy and it will not be easy. Allora, signori, intanto io ricordo che da 88 giorni 18 marittimi di Mazara del Vallo sono detenuti in Libia, Bengasi. Non ne parla nessuno, quasi nessuno in Italia. Ieri il Corriere della Sera con Lorenzo Cremonesi. Incredibilmente parliamo di riforma elettorale, di rimpasti, ne parla la BBC, ecco, questa è ancora più incredibile, la seconda volta la BBC ne parla. Now it's all out and you know. This is a story that hasn't really had a lot of international attention, but in Italy it's been massive, and on the island of Sicily. Non so se capite l'inglese, ha detto in Italy it's been massive, cioè se ne parla in una maniera incredibile, non ne parla nessuno. Io da moglie, anche da fidanzata, ho sempre as a wife and before that as the girlfriend of a fisherman. Dobbiamo ascoltare la BBC per apprendere qualche dettaglio giornalistico su questa vicenda. La BBC. My heart leaves too on that fishing boat. E ha fatto un altro servizio molto approfondito su questa vicenda. 18 marittimi di Mazara del Vallo detenuti in Libia. E a lei. Per quel che riguarda l'Italia, che dire, magari parleremo più avanti di notizie legate al Covid. Io dico solo questa cosa della scuola, attendo poi lunedì l'ottimista Maria Piera Ceci, la scuola. Oggi qualche titolo sul quotidiano nazionale, la scuola sarà l'ultima a riaprire. Io l'ho visto il titolo, ho detto ragazzi, da Marte è tutto a voi la linea Terra. Da Marte è tutto a voi la linea Terra. Incredibile, si parla delle piste da sci, del cenone, della messa, del far nascere Gesù bambino due ore prima, se sia un'eresia o no. Boccia, dixit che non è un'eresia, però le scuole riaprono per ultime. La scuola sarà l'ultima a riaprire, titolo del quotidiano nazionale. Su questo vi segnalo un'intervista che già Simone Spezia ha segnalato alla ministra De Micheli, ministra dei trasporti, e dice che non ci sono studi scientifici, non esiste alcuno, e dice che i trasporti siano fonte di contagio. Vabbè. Ma la prima domanda di Corrado Zunino e la prima risposta è meravigliosa. Ricordate Catalano? Ministra De Micheli, è favorevole la riapertura delle scuole superiori delle seconde e terza media dal 9 dicembre prossimo? Risposta della De Micheli. Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Punto. Per me l'intervista può finire così. No, poi ha argomentato, ma... Punto. Allora, sono le 9:15 minuti. Adesso voglio un po' di attenzione, cari ascoltatori, per raccontare una storia che è una storia dolorosa. Che è una storia, però, io credo possa dare, fornire qualche spunto di riflessione, certamente, magari anche qualche consiglio pratico a tanti genitori che sono all'ascolto. È la storia di un ragazzo che aveva 14 anni, si chiamava Igor. Il 6 settembre 2018 si è tolto la vita. E prima di farlo ha visto un video, questo è accertato, tanto che c'è un'inchiesta giudiziaria, parleremo anche dell'inchiesta giudiziaria. Ha visto un video molto particolare. Noi vogliamo introdurre questa storia così. Igor aveva 14 anni, viveva in periferia a Milano ed era un grande appassionato di arrampicate. Sarebbe morto tentando una prova di coraggio, il cosiddetto blackout. Si chiama Blackout la nuova challenge del web che consiste nel filmarsi mentre si trattiene il respiro sino a perdere conoscenza. Il 14enne, secondo le indagini, non avrebbe visto direttamente il tutorial che incredibilmente esiste sul web e che ha totalizzato oltre 1 milione di visite, ma un altro video sulle sfide più pericolose al mondo per sballarsi senza droga. Non è accettabile che un ragazzo di 14 anni muoia in conseguenza di un'emulazione in un gioco perverso in chat. Sono vicino al dolore profondo della famiglia del giovane Igor Mai per questa morte assurda e crudele. L'ultima voce l'avrete sicuramente riconosciuta, è quella del presidente della Repubblica Mattarella. Io saluto il padre di Igor, Ramon Mai. Buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno. Ecco, intanto le parole di Mattarella, vogliamo partire da lì, caro Ramon Mai, dal dolore manifestato da il presidente della Repubblica per questa morte assurda. Sì, noi li abbiamo sentite, più volte, e ci ha fatto piacere sentire la vicinanza dell'attuale istituzione dello Stato. Abbiamo sì. Anche scritto al presidente per ringraziarlo. Beh, direi che è una vicinanza che io ricordo quel 2018, tutto quello che si è scritto, poi in questi casi ovviamente si rischia anche di scrivere, di dire cose a sproposito, dimenticando intanto la tragedia che è al centro. Io ho detto appunto che c'è stato questo video, c'è un'inchiesta giudiziaria che ne è scaturita, so che il PM ha chiesto l'archiviazione per un ragazzo di 24 anni, se non sbaglio, che aveva postato questo video su questa blackout challenge. Ecco, lei ne sapeva qualcosa da genitore di questo video o di queste sfide che circolano in rete? No, noi prima che succedesse, prima che morisse Igor, non ne sapevamo assolutamente niente di queste cose, tant'è che negli incontri che ho avuto modo di fare, di carattere divulgativo nelle scuole, una delle cose che dico è che è importante conoscerle, è importante sapere che ci sono queste cose sia da parte dei ragazzi che da parte dei genitori. Sì, perché quello è un mondo sconosciuto, quello, no, per noi genitori. È un mondo assolutamente sconosciuto che secondo me, io ritengo che non vada demonizzato, perché io il grosso rammarico che ho è di non averlo visto io quel video con Igor, certo. Ovviamente, perché Igor, come avete detto in apertura, è un appassionato d'arrampicata e indubbiamente era un ragazzo a cui le sfide piacevano, gli piaceva, ed era attratto, ma lo abbiamo sempre fatto in modo, abbiamo sempre fatto delle cose che si trattasse di arrampicare o di fare dei tuffi, in modo, pensavo, consapevole e ragionato. Quella è una cosa che non abbiamo mai visto assieme, non ci abbiamo mai ragionato, e questo è il mio grandissimo rammarico. No, ma guardi, ce l'ha capitato di vedere degli altri video, io ho commentato e glieli ho fatti vedere io, dei video di quelli che vanno sulle gru senza corde, senza niente, così per dire io sono qui, sono in alto, e il mio atteggiamento era stato proprio con quello, con lui e con suo fratello Rocco, di dire guarda, questa qui è una stupidata, la trovi che ti fanno vedere, ma è una stupidata, noi andiamo in montagna ma con le corde, le sicurezze, tutte queste cose qua. No, ma non c'è dubbio, è chiaro che lei va adesso, dopo periodo di grande sofferenza, ha deciso anche di andare nelle scuole per raccontare ai ragazzi, incontrare i ragazzi, magari anche ascoltare i ragazzi. Uno è abituato a dire ai figli, non lo so, nel caso della montagna si fa così, oppure stai attento a questo, ma quel mondo lì che c'è nello smartphone ancora, perché facciamo parte di una generazione diversa, insomma, non abituate a crescere con quell'oggetto in mano, è un qualcosa di misterioso che ci sfugge, che eppure i pericoli ci sono lì dentro. I pericoli ci sono e appunto è pericoloso che non li conosciamo, perché io con i miei figli avevo cercato di condividere la mia esperienza io sono nato nel 68, quindi tutto quello che potevo trasmettergli dei pericoli che conoscevo, io ho cercato di trasmetterlo, però alla mia generazione i pericoli erano il motorino, la droga, certo. Queste cose qui, quello lì è un mondo che io non mi immaginavo, ecco, mettiamolo così, magari qualcuno più bravo di me se lo immagina, io assolutamente non avevo immaginato. No, ma guardi, secondo me non glielo dico, non so quanto possa valere, non deve pensare qualcuno più bravo di me, non esiste il genitore più bravo o il genitore perfetto, ecco. A questo ci tenevo a dirglielo. Nelle scuole, perché ha deciso di andare nelle scuole e di iniziare a parlare ai ragazzi? Perché credo che quello che è successo a Igor sia successo soprattutto per mancanza di informazioni. Cioè io sono convinto che lui ha pensato di fare una cosa che poteva controllare, una cosa che insomma con cui avrebbe potuto poi tra virgolette bullarsi, e ha fatto una stupidata che gli è costata la vita. È stato stupido e è stato anche molto sfortunato. Certo. Io dopo la sua morte ho ricevuto tanti messaggi di persone che mi hanno detto io ho provato a fare una cosa del genere e mi è svenuta la mia sorella, non ho dovuto rianimarla o cose di questo tipo. Quindi e questa cosa del choking in diverse forme è presente da tantissimo tempo, sì, sì. Anche nella mia generazione mi hanno detto che c'erano delle cose del genere. quello che cambia tanto è dal punto di vista internet, è che tutte le persone pre questa generazione informatica, alla fine questa cosa la facevano con qualcun altro, sì. Quindi perlomeno c'era il confronto con qualcun altro. Adesso lo si fa chiusi magari in una stanza a 14 anni, a 13 anni, a 12 anni. Esatto, è proprio quella la differenza. Sì. Io ai ragazzi dico, voi quando facevamo noi le stupidate da ragazzi c'era sempre qualcuno, e anche solo vedere la faccia che fa qualcun altro quando tu proponi una sfida, una stupidata, ti dà in qualche modo la misura di quello che stai facendo. Certo. Senta, perché a me è capitato di spararla grossa da ragazzino, ma poi guardando le facce che facevano gli altri ho capito che aveva sparata troppo grossa. C'era un po' più di controllo reciproco. Ramon Mai, mi faccia salutare una persona che è spesso con noi, l'avvocato Marisa Marraffino, che ringrazio e saluto. Buongiorno, grazie, avvocato. A voi, buongiorno, e saluto anch'io il signor Mai, col quale tra l'altro ci siamo scambiati dei messaggi. Giulio Sallo ringrazio per tutto quello che sta facendo di cuore. Sì, perché l'avvocato Marisa Marraffino è esperta anche di queste tematiche, perché io ho parlato in maniera di sfuggita dell'inchiesta giudiziaria. Quello che si è accertato è che c'era questo video, c'è una persona che lo ha caricato. Per questa persona, se ho capito, avvocato Marraffino, è stata chiesta l'archiviazione, sì. Perché non si è ravvisato, sì. O c'è un giudice che si dovrà pronunciare, ma non si è ravvisato, sì. il dolo e il nesso, sì. Anche tra il video, sì. In realtà si tratta di una norma, l'articolo 580 del codice penale, che si applica veramente in rarissimi casi. Poi c'è da considerare questa norma, una norma del 30, il codice Rocco, il codice penale del 30, quindi era nata con tutt'altre finalità. E questa norma richiede che si determini una persona al suicidio, cioè che si con la propria condotta si voglia poi anche il suicidio, perché è una norma a dolo generico, no? È un reato a dolo generico, e quindi sulla base di queste valutazioni il pubblico ministero ha chiesto, insomma, l'archiviazione, e sì. Adesso poi vedremo cosa decideranno. E questa è la vicenda. Rimane il fenomeno, ecco, il fenomeno del non controllo di quello che succede sulla rete, come ha sì. detto Ramon Mai, da non demonizzare ma da conoscere. No, diceva giustamente il signor Mai che mentre noi stiamo parlando probabilmente tante persone sono già lì che appunto si cimentano purtroppo in queste sfide pericolose. Io faccio soltanto alcuni esempi se posso. A noi capita spesso in studio, vengono le persone per tanti motivi, proprio ieri l'altro una signora dice: io ho guardato la rubrica telefonica di mia figlia, non c'era un nome di una persona, di un cristiano, no? Erano tutti nomi di personaggi dei Pokémon, personaggi strani. Questa rubrica mi ha praticamente terrorizzata, no? Allora ho chiesto a mia figlia dove avesse conosciuto, chi fossero queste persone, perché erano poi dei numeri reali, no? Allora queste persone erano conosciute in modi più svariati, quindi il controllo totale di un adolescente è praticamente impossibile oggi. Queste persone vengono conosciute sui giochi online, la PlayStation, mille giochi, per cui spesso addirittura io dico quello che si potrebbe fare, per carità, ci sono tante cose, no? A partire dalla responsabilità delle piattaforme, no? Che ci mettono molto tempo a caricare questi contenuti, ma il controllo assoluto, noi stessi avvocati non ci sarà mai, ma bene, certo. Non ci sarà mai, è impossibile. Quindi intanto il signor Mai fa un lavoro enorme, per il quale noi tutti dobbiamo ringraziare, che è quello di aver messo insieme le sue forze, il suo coraggio per parlare nelle scuole. A me come avvocato, se mi permette di dire questa cosa, fa molta rabbia e molto dispiacere che noi si debba intervenire sempre, purtroppo, quando qualcuno alla fine, c'è più. Tutte le leggi, pensate alla legge su cosiddetto revenge porn, oppure il cyberbullismo, nascono purtroppo da storie dolorose come questa. È un problema che la legge rincorre sempre i fatti, quindi noi a tutti i tavoli tecnici ai quali partecipiamo, e ce ne sono tanti, e mi piacerebbe, ecco, che magari anche la storia di Igor, ecco, facesse nascere magari una rivoluzione anche legale. Da questo punto di vista noi stiamo proponendo una sorta di disciplina delle piattaforme, no? Sì. Quindi in modo di rimuovere sempre più velocemente questi video questi pericolosi. Video. Io vorrei chiedere una cosa ancora, signor Ramon. Lei giustamente quando andava nelle scuole, adesso alcune scuole ovviamente sono chiuse, immagino soprattutto nei licei o nelle medie, adesso, in attesa che riaprano le scuole, ha sempre usato questa frase: non pensiate, cari genitori, e non è un giudizio, non pensiate che non possa capitare a tutti noi, cioè a persone normali, a persone che hanno figli adolescenti, perché la sensazione è sempre quella di dire: ah no, ma io mio figlio lo conosco, mia figlia la conosco, non capita. Che non è come dire un monito, ma è un qualcosa di un segnale d'allerta, no? Che lei lancia. Assolutamente un segnale d'allerta non un monito. Perché io nelle scuole lo dico sinceramente, nelle scuole che mi hanno invitato, io lo dico sinceramente. Io se avessi letto una cosa del genere prima di quello che è successo a Igor, avrei pensato allo stereotipo del ragazzino introverso che passa tutto il tempo al computer, chiuso in una stanza da solo, che non ha amici, è un po', come dire, estraneo alla vita. E invece no, Igor era esattamente il contrario. Lui sia nei suoi ambiti a scuola o nell'arrampicata era nel suo piccolo ambito un leader, uno che teneva banco, che aveva tanti amici, era cercato dalle persone. Era esattamente il contrario di quello che i ragazzini direbbero lo sfigato che immaginiamo che fa una cosa del genere. Quindi se c'è arrivato lui, anzi forse è stato proprio questo la sua... a ingannarlo, lui è stato troppo coraggioso, troppo guascone, direi, per la certo. Una parola della mia generazione, certo, una curiosità quindi, sfrontata per tutte le forme estreme. Lui era uno molto molto curioso, che faceva un sacco di cose, provava a costruire oggetti e robe del genere, e ci è caduto. E quindi attenzione agli stereotipi che abbiamo, nel senso che, ripeto, io è l'ultimissima cosa che avrei mai pensato. A me hanno telefonato a casa dicendo che c'era Igor in ambulanza, ho pensato che si fosse fatto male col fratello o con un attrezzo mentre cercava di costruire qualcosa, tutto avrei potuto pensare tranne che questo. Io, come dire, al momento mi devo fermare, anche se questi sono temi sui quali ogni tanto torniamo. Io voglio ringraziare davvero e mandare un abbraccio a Ramon Mai, alla famiglia. Ringrazio l'avvocato Marisa Marrafino, su questi temi ogni tanto ritorniamo. L'appello sì a dire anche dell'avvocato Marrafino, a dire: cavolo, noi avvocati possiamo solo intervenire quando si è consumata una tragedia o quando si sta per consumare una tragedia. Non c'è mai un modo... o ci sarà un modo per intervenire prima, se si vogliono fare le cose si possono fare, come sempre, come un controllo maggiore, un controllo sui contenuti che vengono messi, ripeto, senza demonizzazione, senza ansie, senza preoccupazioni, ma con l'idea di conoscere quello che i nostri figli fanno anche in rete, visto che giustamente ci chiediamo che cosa facciano quando escono la sera, quando escono la sera tardi, quando vanno il pomeriggio, con chi vai, a che ora torni, però effettivamente ci facciamo meno domande, ci poniamo meno domande su cosa fanno quando frequentano lo smartphone, e lo dico proprio così, quando frequentano lo smartphone. Andiamo alla pubblicità, rientriamo tra un attimo. 1, nessuno, 100 Milan. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Milan, ma come ti permetti di criticare il partito? C'è il centralismo democratico, ti mandano dritto dritto in Siberia, eh? Sta' attento, Milan. Lavoro per una piccola azienda di trasporto pubblico e facciamo principalmente ingressi e uscite delle scuole. Con le scuole chiuse anche noi stiamo morendo piano piano. Milan, a scuola non si prende contagio, sui trasporti non si prende contagio, allora cos'è? Lo Spirito Santo che ci contagia? Potrebbe essere Manera l'untore, Leonardo Manera, il grande untore, eh? Ormai è mobbing nei miei confronti. Già uno che esordisce invece che con buongiorno con ormai, la prima parola è ormai. Ormai è mobbing dichiarato. Allora, ieri non mi hanno mandato il codice come molti altri giorni. Oggi me lo hanno mandato sbagliato. No, non è vero. Tra l'altro, non è vero. Sì, sbagliato, sì, ho dovuto richiedere quello giusto. Non dopo è vero. Me l'hanno... Tra l'altro, allora sono quattro cifre, magari te lo mandano mischiato per farti risolvere. Quattro cifre non sono tante combinazioni. Tra l'altro, Miriam Lucchetti, che mi ha mandato il codice sbagliato per canzonarmi ulteriormente, per prendermi in giro, me l'ho anche mandato in eretto quello sbagliato. Come dire, hai visto? Prendilo, te l'abbiamo mandato oggi. Io ho provato, sbagliato. Scusa, ma se sei qui collegato, come hai fatto? Mobbing. Ho dovuto dire il telefono non accetta il codice. Dopo, in prossimità, diciamo, della messa in onda, adesso della fine della pubblicità, mi hanno rimandato quello giusto. Ma ormai chiaramente è mobbing. Quindi l'ho detto ieri a comportamento concludente. Ho capito, vi libererò della mia presenza. Sto già prendendo contatti con Radio Bella e Monella. Sì. Va bene. Vado a lavorare a Radio Bella e Monella. Allora, anzi, se c'è qualcuno di Radio Bella e Monella in ascolto, io sono qui. È qui. Va bene, giustamente mi scrive il direttore del Teatro Manzoni, Alessandro Arnone, perché io gli ho fatto l'inizio dicendo la scuola è l'ultima ad aprire, la vergogna, e lui dice penultima, gli ultimi ad aprire chi sono, caro Leonardo Manera? Lo sai bene tu. Chi fa spettacolo? Io ormai sono entrato prima di marzo, insomma, fine febbraio, marzo non se ne parla. Che stupido ottimismo. Cosa vuoi che hai? No, sono realista in questo caso. No, dico che ottimismo, così. Nel senso che magari, no, speriamo, forse, sì, chi lo sa, marzo, dai, 2000, anno nuovo, vita nuova, speriamo, 2021. Non lo so, c'è da dire che è una situazione complicata, questo sì, però effettivamente sentire sempre gli ultimi ad aprire, i teatri ormai praticamente hanno aperto pochino a settembre, forse 10 giorni, ma nemmeno, perché la stagione poi comincia di fatto ottobre per i teatri, quindi di fatto quando riapriranno, speriamo a gennaio, febbraio, marzo, è un anno di chiusura, l'anno sabbatico di chiusura, lo dico con amara ironia, ovviamente. Sperando che non sia esattamente come dice il professor Galli, che dice che ancora per tutto il 2021 ci saranno problemi, ma questo virus ci sarà sempre, come tanti virus, no? Ma certo che ci sarà. Comunque sempre. Arriva, siamo pieni noi di virus. Arriva un ascoltatore. Virus, germi, batteri. Noi abbiamo batteri nel nostro corpo che sono molto più vecchi di noi, batteri che sono lì da 2000 anni, che sopravviveranno alla nostra morte. È vero. Quando noi saremo putrefatti, questi batteri saranno. No, non in noi. Poi si trasmetteranno alla Terra e da lì andranno altrove. C'erano prima di noi e ci saranno dopo di noi. Virus e batteri nel nostro corpo. Amici ascoltatori. Allegria è la verità. Il dottor Mazza, effettivamente, il professor Mazza, non è che c'è mica, che aveva una sua certa età anche, credo. Non è che magari in questo periodo. Ho visto che stanno cercando nuovi medici. C'è anche l'inserzione che è messa nelle televisioni. Lei quanti anni ha? 125. Ma come l'abbia lasciata? Ne aveva 110. Io non ricordo più. Io a 125 sto pensando di rientrare nell'attività sanitaria per scoraggiare i pazienti ad arrivare al pronto soccorso. 125 anni, beh, la sentiamo abbastanza in forma, cioè direi come quando ne aveva 75, parla sempre così, sempre così. Sempre lo stesso, già a 7 anni parlavo così. Ecco, incredibile, arriva un messaggio di un ascoltatore, questo è mobbing, e con anche rabbia, quindi adesso sta anche, come dire, raccogliendo sostegno su questa sbagliata battaglia nei suoi confronti. Basta saperlo. Va bene. Sentiamo Fabio che ci chiama da Bologna. Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, volevo solo banalmente intervenire sull'argomento che stavi trattando stamattina. Sì, sì. Io mi occupo professionalmente di privacy, che non esiste, ma di protezione dei dati personali, quindi protezione delle persone. In che senso che non esiste? E anche noi facciamo, anche noi a scuola, andiamo nelle scuole e insegniamo ai ragazzi a utilizzare in maniera non pericolosa smartphone e queste cose qui. E banalmente io credo che l'unica maniera per aiutare i nostri ragazzi, gli adolescenti, a capire questo mondo è spiegargli prima le cose, fare tanta tanta formazione a noi genitori per primi, io ahimè sono genitore di un adolescente, e spiegare ai ragazzi che il mondo dentro lo smartphone è esattamente come il mondo fuori dallo smartphone. Questo è l'ostacolo maggiore, fate bene sì. A dire questo, è l'ostacolo maggiore da far capire agli adolescenti e ragazzini, cioè pensano che quel mondo lì sia, vabbè, ma questo tanto è qui nel telefono, sia irreale. Poi la cosa peggiore è quando pensano che fuori il mondo, cioè che quella sia una rappresentazione del mondo fuori, nel senso che il mondo fuori sia un po' irreale tanto quanto quello dello smartphone. Invece sono tutte e due reali, concreti, con i loro pericoli e le loro opportunità, le loro occasioni. Fabio, ma perché all'inizio ha detto la privacy che non esiste? Sembrava quasi perché un po'... Perché in realtà quello che parla di privacy, che si chiama GDPR e lei lo sa benissimo, sì, sì. Non parla di privacy, parla di protezione dei dati personali, e le dirò di più. Certo. Parla di come proteggere le persone tramite la protezione dei dati che li riguardano. È un po' rigogolata come frase. Sì, sì, no, sembrava che ci fosse, quasi un'ironia, come dire. Esatto, la privacy è un'altra cosa. Certo. La protezione certo. dei dati personali è una cosa molto più profonda della privacy. Chiaro. Va bene, Fabio da Bologna, la ringraziamo per questo intervento. Non è mobbing quello con Manera, è bossing, dicono bossing. Cosa significa? Cos'è il bossing? Da boss, il capo. Che cioè, non, la colpa è tua. Ma io non sono il tuo capo. Ma non sono il tuo capo. Semmai, forse la redazione, forse Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli sono i tuoi capi. Io proprio sono l'ultimo della catena. Classico atteggiamento di chi non vuol riconoscere le proprie responsabilità, di bene e meglio. Ma figurati se io ti boicotto proprio. Il codice, ma ti pare? Dal mobbing allo scarico di responsabilità una dopo l'altra. C'è abbastanza materiale per fare causa subito, chiamo la Maraffino. Infatti era prima con noi. Il bossing, sfida Lucchetti, consiste in abusi e vessazioni perpetrati sistematicamente ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico, che non esiste qui. Ma qual è il tuo diretto superiore gerarchico? Sei tu. Ma tu sei vero. Il mio diretto superiore. Se Sebastiano Barisoni deve dire qualcosa, qualche lamentela nei miei confronti, o Alessandra Scaglioni, prima la dicono a te e dicono di comunicarla a me. Ma quindi tu vero. Sei il mio diretto superiore gerarchico. Ecco, qui proprio hai detto una cosa che non succede, quindi nessuno è il boss di Manera. Questo sia chiaro. Manera è libero, è un artista. Ah, tra l'altro sai che un pochino parleremo di cultura per lanciare un'iniziativa del gruppo alle 10 e poi nella seconda ora. Ma di che gruppo? Del gruppo WhatsApp? No. Vabbè, dai, andiamo al traffico perché rovina tutto. Non voglio, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao Milan, ciao Leonardo, c'è da ridere, sono in superstrada in direzione Brescia, dalla Valle Camonica, ci sono gli spazzini della provincia con il soffiatore che buttano in mezzo alla strada di tutto, lattine, erba, pezzettini di legna, ma sono normali questi qua, intervenite voi per favore, c'è da ridere. Ma Manera, ti hanno disconnesso come il ragazzo di ieri, quasi quasi farei causa. Era un ragazzo di Glovo. Ma io aggiungo una cosa, Leonardo, sulla questione scuola. L'intervista per me è incredibile, ministro De Micheli, oggi a Repubblica. Parte la prima, la prima risposta è: le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Catalano. Ma poi dopo argomenta e praticamente propone la scuola fino alle 20, quindi alcuni che studino dalle 15 alle 20, il sabato e va bene, e perché no anche la domenica. Anche la domenica. Ma io dico, ma già gli studenti sono privati di molto in questa scuola a distanza. Ma perché non proporre gli statali lavorino la domenica? Ma perché non tutti quanti? Gli studenti vanno a scuola sabato, domenica, dalle 15 alle 20, alcuni il pomeriggio. Cioè, i giovani, si vede che sono giovani, sanno adattarsi, no? Forza, studenti, a lavorare la domenica, cioè a studiare. Vabbè, la domenica. Scuola, ci si può svagare, vabbè, ma sei polemico, ci si può svagare andando a messa, per esempio. Così. Andando a messa, va bene. Vai la domenica, poi fai un'oretta di pausa per la messa e poi puoi studiare. Giusto, è giusto, si potrebbe fare così. Vabbè, dai, gli studenti si devono adattare a tutto. A casa, state a casa, non andate a scuola. Se andate a scuola vi mettiamo alle 15, no, alle 20, la domenica. Vabbè, sì, invece gli altri no. Vai, Leo, vai. Di sera non si esce più ormai, è a novembre col buio che arriva presto. Se sei a casa viene voglia di mangiare alle 6 di pomeriggio. Attività fisica non se ne fa più ormai. Si potrebbe andare a correre all'aperto, ma chi ha voglia con questo freddo? Per chi come me lavora da casa, il frigorifero è lì a portata di mano, diventa il miglior amico, amico frigorifero. Quello con cui parlo, anche attendendo inutilmente risposte che non arrivano. Lo si apre e si chiude diverse volte nell'arco della giornata, ogni volta con un minimo di senso di colpa, ma poi trovando anche il modo per giustificarsi. Ma sì, è solo uno stuzzichino, che vuoi che sia. E poi tanto di sera non esco. Per cosa? Per chi vale la pena di tenersi in forma? Il fatto che poi in casa molti tengono la tuta non obbliga nemmeno a concentrarsi sul buco della cintura. La tuta è indulgente col consumo di cibo anche eccessivo. La tuta vuole bene al cibo perché l'elastico non fa mai pesare il girovita allargato. Tuta e frigorifero andrebbero venduti insieme, sono complementari. Bisognerebbe mettersi di buzzo buono e fare ginnastica a casa. Qualche volta ci si prova, si posiziona il tappetino e poi via, con addominali, bicipiti e quant'altro. Ma poi la pigrizia prende il sopravvento e dopo 3 flessioni al massimo si getta la spugna, volgendo lo sguardo al frigorifero. Quante volte lo apro ogni giorno? So già quello che c'è dentro, eppure lo apro più volte, come se fosse la scatola di un mago e al suo interno ci fosse qualche trasformazione, invece no. Rimane sempre tutto uguale quello che c'è nel frigo, tranne il tonno semiaperto nella sua scatoletta che tende a diventare giorno dopo giorno da beige a marrone scuro. Ecco, quando si dice che il cibo in certi momenti diventa una consolazione, in questo periodo anch'io ne ho la prova. Mangiare è una delle poche cose che ci è consentito fare ormai. In più non andiamo verso l'estate, periodo in cui bene o male si fa più attività fisica, ma andiamo verso il periodo dell'anno in cui anche in tempi normali il cibo diventa protagonista assoluto. Durante le vacanze di Natale tutti noi mettiamo su qualche chilo e temo che stavolta la situazione a gennaio sarà drammatica. Quel paio di chili in più che normalmente ci proponiamo di smaltire a gennaio quest'anno diventeranno quella ventina di chili in più, che però a gennaio presumibilmente non potremo eliminare ma solo constatare. Tutto quello che abbiamo mangiato e stiamo mangiando in questi mesi resterà la nostra memoria del coronavirus. I cornicioni delle pizze andranno dritti dritti a infilarsi nelle maniglie dell'amore. Le maniglie dell'amore sono costituiti proprio dai cornicioni di tutte le pizze che ci siamo fatti, restano lì per anni. Io ho ancora in una maniglia il cornicione di una prosciutto e funghi mangiata nell'84. E poi tutto il resto, spaghetti, maccheroni, polpettoni, insalata russa, i chili aumentano a dismisura, i visi diventano più tondi, le pance più invadenti, le articolazioni appesantite cedono sotto il peso accumulato, tanto che se potremo vedere i parenti a Natale non ci riconosceranno. Insomma, non so se quest'anno a Natale saremo tutti più buoni, ma sicuramente saremo più sazi di cibo, non purtroppo di vita. Quella resta fuori in questo mese di novembre, dove il buio, che arriva già di pomeriggio, viene illuminato solo dalla luce di ogni silente frigorifero. Ma proprio il tuo frigorifero, ma proprio il tuo, che è miseramente vuoto, c'è al limite dentro qualche zucchina stantia che sia cartoccia. Sono andato a fare la spesa l'altro giorno. Cosa adesso c'è qualcosa. Cosa hai comprato? Allora, adesso attualmente nel frigorifero. Vai, aprilo, delle... fa tanto sei a casa. Sto aprendo puntarelle. Puntarelle di che anno? Quelle già lavate, già pronte. Due pomodori, certo. due. Poi dei pezzettini di pollo avanzati. Da tortellini quando? Di verdure, tortellini di verdure e dell'insalata. Già a Bologna i tortellini di verdure. Va bene. E poi, scusa, l'ultima, verdure avanzate. Ma da... No, dei pezzettini di pollo avanzati. Ah, di che annata? E dell'insalata, di quella prelavata. Oggi Manera è amarezza pura al 100%, ci scrive da Oslo. Raffaele ci sta ascoltando da... Pensa, stai gettando nell'amarezza uno che è andato a Oslo per rifarsi una vita in allegria. E tu? Cosa vuoi dire a Raffaele da Oslo? Raffaele, andando a vivere a Oslo già ti sei messo nei guai da solo. Non è vero, non è vero. Sì. Viene buio più presto là d'inverno, quindi la luce Berna, non c'è mai, non è come e Berna. Induce all'amarezza. Ma forse tu sei un amante dell'amarezza, forse sei andato lì proprio perché apprezzi l'amarezza. Allora ti invito a venire da me qui per una quindicina di giorni e potrai godere appieno di quello stato d'animo che probabilmente ti dà piena soddisfazione. Signori, da Melania Trump a Raffaele da Oslo. Sta invitando Raffaele. No. Vabbè, Massimo, vieni, da Firenze, vieni. Ce la fa? Buongiorno, prima. Buongiorno, vabbè. Mina, buongiorno. Scusi che Manera sta cartocciando l'immondizia. Prego, Massimo. Prego. Buongiorno, Mina. Manera, buongiorno anche a te. Non ho parole, buongiorno. Ma sono pensieri per te. Buongiorno. Allora, io intanto un caro saluto ai Babbo di Igor. E poi io avevo chiamato per il fatto di questi ragazzi. Sì. Il problema io penso sia molto più grosso di quello che si pensi. È bene sì queste informazioni all'interno delle scuole, è bene che questi ragazzi vengano informati di queste problematiche, ma credo che purtroppo, dico purtroppo proprio con la P maiuscola, non basti. Non basti perché i ragazzi dal momento che cominciano a frequentare le scuole, dal momento che escono dagli appartamenti dei genitori, cominciano a frequentarsi fra di loro, cominciano nuove avventure, nuovi pensieri, è bello della vita. È il bello della vita. Purtroppo il brutto della vita è questa tecnologia che porta avanti ancora prima di capire come si è fatta noi. Io sono del 66, perciò... A questo parere. No, Massimo, magari lo riprendiamo tra un attimo, dopo il giornale radio. Io non sarei per demonizzare, però è interessante il tema e lo riprendiamo tra un attimo. Uno, nessuno, 100 Milan. Leonardo, smanera un po', smanerare, smanera! Dai ragazzi, con tutti i palinsesti che avete, dai, vi occupate di milioni di cose a Radio 24, fate una trasmissione sull'arte che non esiste da nessuna parte, né in televisione né in giro, c'è Manera che se ne intende. Ma Madonna mia Manera, che tristezza tu m'ha messo, e sa andà bene di nulla con questi periodi mare in mazzucchina. Tortellini di verdure? Ma tortellini di verdure? Sì. Ma io ti mando a casa una sardina che ti fa un sedere come una capanna. Ma anch'io sul tortellino di verdure ho fatto un po' un balzo. Cos'è il tortellino di verdure esattamente? Sono dei tortellini che all'interno hanno solo zucchine, melanzane e peperoni. Questo è il ripieno di queste tortellini di verdure. Il peperone ti rimane un po' piantato lì, però. Ma sì, ma poi sarà tutto finto, dentro non c'è niente di questo, vero? Saranno tutti dei surrogati. Signori, io durante la pausa addensanti, acidificanti, ecco, conservanti, ansiolizzanti, 0,5%. Ma peperoni 0,5, sì. Melanzane 0,4. Praticamente, insomma, addensanti 95. Esatto, tortellini agli addensanti. Allora, durante la pausa nel giornale radio ho fatto una ricerca sulla chat interna di Uno Nessuno 100.000. Abbiamo la chat interna e ho detto vabbè, ma adesso forse Manera sta esagerando però con questa cosa, e ho fatto la ricerca con mi date il codice con punto di domanda. Devo dire che mi si è aperto un mondo. Questo la dice lunga. Mi si è aperto. Quante volte ti è comparsa la richiesta mi date il codice? Secondo me 1006. 1006, ce l'hai salvato come messaggio, come messaggio. E poi ci sono le varie versioni, perché c'è il Manera gentile, mi date il codice, c'è il Manera basito, mi date il codice con due punti di domanda, c'è l'ossessivo compulsivo, mi date il codice dopo 30 secondi, mi date il codice. C'è il nervoso, c'è anche il polemico, c'è il polemico, mi date il codice gentilmente, e c'è l'amaro, mi date il codice tanto ormai. Esatto, è un rap, è, ormai mi date il codice, è un fedele specchio della realtà, quindi è quello che dicevo all'inizio. Comunque l'avvocato Marisa Maraffino mi ha fatto sapere che se vuoi ci sono gli estremi per il mobbing, il bossing e tutto quello che ritieni più. Infatti, grazie Marisa, so che tu potrai difendermi al meglio e farmi avere anche un congruo risarcimento, ecco, danni biologici da me, ovviamente devo pagare, io dovrei pagare. Vabbè. Dal gruppo WhatsApp Cerbone, signor Cerbone. WhatsApp. Ruggero da Milano, buongiorno Ruggero. Buongiorno. Eccoci. Niente, volevo farti i complimenti che meritatissimi per entrambi. Volevo fare una proposta a Manera, un bel libro con tutte le sue riflessioni, i suoi pensieri, che così pacatamente in un'epoca di vannamarchismo in cui urlano un po' tutti, ecco, se facesse una raccolta, un libro, sarei prima ad acquistarlo. È pigro. Allora io rispondo pigro, questo ascoltatore. No, rispondo io, no, poi risponde in Maniera con la sua verità. La verità è che è pigro, sì, gliel'abbiamo detto mille volte, è pigro. Ecco, questo, no. Prego. Non prego. È questione di pigrizia, basterebbe raccogliere tutti i monologhi che ho nel computer. Il problema che mi pongo io ogni volta che vado in libreria, me lo so, proprio l'altro pochi giorni fa ero in una libreria e ci sono questi scaffali strapieni di libri. Allora dico, perché andare a intasare le librerie con un altro libro che eventualmente venderebbe 500 copie, se va bene 1000 copie, è già pieno di libri che non vendono, e allora è inutile andare perché a intasare ulteriormente. Vabbè, è così, Ruggero, gliel'abbiamo detto in 500, anche da questo libro, fa bene, Ruggero. Anche perché da questo libro non trarrei a sufficiente, come dire, soddisfazione economica. Eccolo lì, scrivere da un libro lato, per guadagnare soldi, proprio la da cultura. Un lato andrei a intasare le librerie, perderei tempo e non trarrei soddisfazione economica. Sono tre elementi che vanno tutti a testimoniare a svantaggio di questa ipotesi. Vabbè. Maria Elena da Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. Io volevo intervenire in merito a quanto è stato detto prima sul fatto che i ragazzi nella scuola devono adattarsi. Mm-hmm. E io sono insegnante e effettivamente delle superiori, effettivamente vedo che questa cosa è veramente tirata all'estremo, nel senso che inizialmente quando non c'era la didattica a distanza gli si chiedeva addirittura di fare dalle 9 di mattina alle 6 di sera. sì, adesso gli si chiede ore asincrone, sincrone. Cioè, è una situazione paradossale proprio, sì, quindi... Sì, io prima ho detto provocatoriamente, ma chiedetelo agli statali di lavorare domenica, ma molti lo fanno, giustamente molti si sono risentiti, ma mi è venuto in mente gli statali, peraltro gli insegnanti sono statali, ma potrei dire, ma chiedetelo agli idraulici, cioè non ho capito perché il concetto è agli studenti si chiede di tutto, no? Maria Elena, lei conferma, di adattarsi in qualsiasi modo, e loro silenziosamente, alcuni protestano, lo fanno. Io faccio un appello che non siano più silenziosi, perché non è giusto che loro debbano farlo, perché sono giovani e è una generazione che è il nostro futuro. E bene, quindi prendono veramente il coraggio e la forza di dire che loro ci sono e hanno tutti i diritti e devono essere rispettati. Molti lo stanno facendo, ha visto, insomma, che nascono manifestazioni, sì, proteste. Sì, ma ancora di più, io sono molto contenta quando vedo i ragazzi fuori dalle scuole col tavolino, quando sento a scuola, io lavoro in un alberghiero, che non vogliono fare questi orari e vogliono degli orari più ordinati, ridotti. E è giusto così dal mio punto di vista, perché loro hanno sono tutto d'accordo, il diritto di viversi la loro adolescenza, che non è fatta solo di computer, casa e lockdown. Grazie, grazie Maria Elena. Adesso da Torino, ci aspettiamo subito la telefonata dell'ascoltatore, sì, che dice ma ai miei tempi c'era la guerra, sì, i nostri nonni hanno fatto la guerra e questi ragazzi si lamentano di stare a casa sul divano. Eh no, non è proprio così. Vabbè. Ogni periodo va giudicato nel momento in cui lo si vive. Non c'era neanche il riscaldamento 300 anni fa, 200, non c'era, certo, l'acqua corrente, non c'era il bagno in casa, quindi è inutile dire 50 anni fa, 100 anni fa era diverso, ogni cosa va giudicata. Ma infatti, contemporaneo. Adesso voglio dire due cose. La prima è che c'è un'iniziativa del gruppo, ne abbiamo parlato un po' di cultura e vogliamo anche noi rilanciare questa iniziativa oggi alle 12, se volete, sul sole24ore.com c'è una maratona digitale in diretta streaming dal titolo Restart, riavvia la cultura, portata avanti dal settimanale il maschile del Sole 24 Ore, e l'idea è quella proprio di dare un segnale, per ora online, per cercare di dire la cultura deve ripartire. Quindi alle 12 sul sole24ore.com la maratona digitale in diretta streaming. Come la lanciamo? Lanciamo questa poesia di Salvatore Quasimodo, letta da Francesco Scianna, lo facciamo anche noi, l'ha fatto anche Simone Spezia, una poesia breve, Specchio, di Salvatore Quasimodo, e vi lasciamo al traffico così. Ed ecco sul tronco si rompono le gemme, un verde più nuovo dell'erba che il cuore riposa, il tronco pareva già morto, piegato sul botro, e tutto mi sa di miracolo. E sono quell'acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi più azzurro il suo pezzo di cielo, quel verde che spacca la scorza che pure stanotte non c'era. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, alle 10:19 minuti, caro Leonardo Manera, adesso dobbiamo parlare di un argomento molto molto serio. In realtà, proponendo un'intervista registrata, registrata questa mattina perché aveva un impegno, torna con noi. Allora, il tema è molto serio perché parliamo di pena di morte. E lo facciamo relativamente all'Iran. Tra l'altro mi ha molto colpito il presidente uscente americano Trump, che ha detto per le esecuzioni federali starebbe pensando di ripristinare la sedia elettrica e la fucilazione, che sono sistemi ancora utilizzati da alcuni stati degli Stati Uniti su richiesta del condannato. Ma lui evidentemente non gli basta l'iniezione letale. Comunque parliamo di Iran. Allora, c'è un uomo in Iran che rischia l'imminente esecuzione. È da 4 anni in carcere, accusato di essere una spia, ma Amnesty International denuncia, è stata una confessione, la sua è storta con la tortura. non deve essere simpatico finire in una prigione iraniana. Quest'uomo si chiama Ahmadreza Djalali, ne abbiamo già parlato, è un ricercatore, è un medico svedese di nazionalità e iraniano. Ha anche lavorato molto in Italia all'Università di Novara, per questo c'è una mobilitazione all'Università di Novara. Per questo la figlia parla italiano, perché è cresciuta, la famiglia è cresciuta anche per un periodo in Italia. Questo Ahmadreza Djalali da 4 anni nelle carceri iraniane. Perché dico rischia l'imminente esecuzione? Perché martedì ha fatto una drammatica telefonata di 2 minuti gli hanno concesso a casa, la moglie, per dire appunto pare che ci siamo, mi trasferiranno per portare avanti questa condanna a morte. E io ho sentito la figlia, Amitis, vive in Svezia, questa mattina l'ho sentita, gli ho chiesto appunto... Partendo da questa ultima telefonata, sentite bene perché lei fa anche poi un appello al governo italiano. Allora, lui prima dell'ultima volta che ha chiamato mia mamma non ci aveva potuto chiamare per quasi 2 mesi perché aveva fatto il telefono, aveva fatto un'intervista che avevamo pubblicizzato qua in Svezia, quindi per 2 mesi non aveva proprio possibilità di chiamarci, quindi già lì eravamo molto preoccupati. E poi l'ultima chiamata l'ha fatto questo martedì a mia mamma. È vero che quest'ultima chiamata significa che potrebbe davvero essere imminente l'esecuzione? Sì, era veramente molto serioso e ha potuto solo chiamare per 2 minuti, era veramente una cosa veloce, solo per dire quello che sta succedendo. Perché come funziona in Iran, per quanto sappiate? Cioè viene comunicato il giorno poi dell'esecuzione? No, loro lo fanno e poi dopo dicono alla famiglia, sono veramente... Sì, lo fanno e poi lo dicono alla famiglia dopo, quindi noi da martedì non abbiamo ricevuto nessuna notizia, non sappiamo dove sia, cosa stia succedendo. E che cosa potete fare? Cioè c'è qualcosa che si può fare? Stiamo cercando di chiedere aiuto ai governi, alla gente, tutti quelli che possono aiutare in qualunque modo, mettere stop all'execution, però anche per liberarlo immediatamente. È da 4 anni che suo papà è in carcere? Sì, 4 anni, quasi 5 ormai. L'accusa è quella di essere un agente segreto, una spia, come si suol dire. Esattamente per Israele oppure una spia in generale? No, loro dicono hanno inventato delle accuse che senza nessun evidence, quindi nessuna prova. Hanno, sì, senza nessuna evidenza. Ma lei si è mai chiesta perché? Cioè perché esattamente avrebbero voluto colpire suo papà? In Iran funziona così, che non è la prima volta che prendono una persona innocente e fanno questa cosa. Però sì, in Iran ormai non è la prima volta che succedono cose così. Perché giustamente si è parlato anche di una confessione, ma ricordiamo che non è facile stare in carcere in Iran, è facile anche confessare. C'era una confessione sotto tortura per 7 mesi, a quando è stato arrestato non aveva un avvocato, non poteva chiamare, hanno detto che avrebbero ucciso la famiglia in Svezia, era sotto qualunque tipo di tortura per una confessione. Secondo lei come mai la pressione diplomatica anche della Svezia o anche un po' dell'Italia, non so se ci sia stata, voi siete stati per un periodo della vita in Italia, come mai non ha portato fino ad ora dei risultati? Secondo me comunque questo supporto ha fatto che ora per 4 anni non sono andati avanti con la pena, però adesso è veramente urgente, quindi la pressione deve diventare anche di più di prima. Lei chiede anche qualcosa al governo italiano, non so, al ministro degli esteri Di Maio, al alle nostre istituzioni. Sì, prima voglio ringraziare tutta l'Italia e la gente per il supporto, perché senza quello questi 4 anni non so come ce l'avremmo fatto. Però adesso abbiamo bisogno veramente di aiuto dal governo, dalla gente, di fare tutto quello che è possibile per liberarlo, di fare tutto quello che possono fare. L'ultima domanda è proprio questa, quasi mi vergogno a farla, non lo so neanche, ci può trasferire che cosa suo padre ha detto a sua madre nell'ultima telefonata di martedì? Come lei l'ha detto, che hanno detto che l'avrebbero trasferito in isolamento per poi andare avanti con la pena di morte. Insomma, questa è la situazione. Io non so, nel momento in cui stiamo parlando, caro Leonardo, può darsi anche che ci siano stati degli sviluppi. Abbiamo sentito in Iran, non è come negli Stati Uniti, in alcuni stati che comunicano, ci sono le veglie di preghiera, ci sono i tentativi, il governatore che può fermare fino all'ultimo. Lì può darsi anche che la sentenza sia già stata eseguita, può darsi che no. Non so, ecco l'appello, cioè questo signore ha un legame con l'Italia. L'Italia, che è la prima io ricordo sempre 1786, il Granducato di Toscana con il Granduca Leopoldo I, che è vero, era un Asburgo, è nato a Vienna, però in Toscana ha abolito per primo al mondo la pena di morte nel codice leopoldino. Quindi l'abbiamo scritto, dovremmo andare fieri, secondo me, di questa cosa. Si faccia qualcosa, si facciano degli appelli, si alzi il telefono, ci si pronunci, ecco, non si può, si potrà dire, ma cosa fate per tutti gli altri? Salviamone uno, se si riesce, no? Però, ecco. Dicevo che la cosa che si può fare intanto è parlarne, non far cadere il silenzio. Esatto. Non da parte ovviamente della politica, che avrà altri canali, ma dico dei media, come hai fatto tu, parlarne. Dicevo una volta, io ogni tanto lo cito Pannella, bombardare di informazione su certe cose. Questo è uno, come ha detto la figlia, il fatto di averne parlato magari per 4 anni o quasi 5 ha permesso a quest'uomo di rimandare la sentenza. Certo, non è che possiamo fare molto di più. Vedremo e ne parleremo ancora. Ci siamo lasciati con Amitis con l'idea di poterci risentire presto. Io spero, ovviamente, per buone notizie. Certo, non sarebbe la prima condanna a morte portata avanti in Iran, è un po' nel silenzio. Le pressioni ci sono, da dire, di Amnesty International, dei colleghi università, docenti universitari dell'Università di Novara, che stanno cercando di rompere un po' l'omertà, il silenzio, per cercare di fare qualcosa. C'è da dire che l'Iran ha respinto anche tutte le pressioni diplomatiche della Svezia, perché quest'uomo ha passaporto svedese. Questo è. Poi mi facevo questa domanda, ma una domanda ingenua. È accusato di essere una spia di Israele, ma Israele, se fosse davvero così, lascerebbe 4 anni senza fare nulla, ovviamente non di pubblico e di pubblicizzato, lascerebbe morire un proprio agente segreto così, senza dare una contropartita, cercare di salvarlo? Forse è una posizione ingenua la mia, non lo so. Ieri ne parlavo anche con un professore di controterrorismo che conosco in Israele, che ho chiamato, mi ha detto: io non ne sappiamo nulla, non conosciamo il caso. Vabbè, ma non è che uno nel caso pubblicamente dica sì, è un agente segreto israeliano. È una vicenda triste, questo sicuramente. Caro Leonardo, è il momento di andare alle informazioni sulla borsa. Poi sai che abbiamo deciso di richiamare l'allevatore di visoni. Ti ricordi che qualche giorno fa abbiamo parlato? Molto arrabbiato. Molto arrabbiato. Preannunciamo che la situazione è come prima, nel senso che non sono stati abbattuti i visoni, non ci sono novità, però sentiremo un po' che cosa ha da dirci tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Oh, when I woke up tonight, I said I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make like somebody loved me. And now I know, now I know, now I know, I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. Ho ascoltato i tuoi monologhi sempre con attenzione estrema, pendendo dalle tue labbra, ma dopo il tortellino di verdure non so se riuscirò ancora a seguirti con tutta quella stima e ammirazione. In questo periodo i boomer a casa, i ragazzi a scuola, i boomer, i baby pensionati chiusi in casa, i ragazzi a scuola, non il contrario. Vabbè, Leonardo, fammi aggiungere una cosa riguardo alla vicenda di Ahmad Reza Jalali, di cui torneremo a parlare lunedì. Ieri c'è stata una manifestazione, come detto, di Amnesty International a Novara, ha partecipato il sindaco, i colleghi docenti universitari di Jalali. C'è stato anche David Sassoli, presidente dell'Europarlamento, che ha fatto un appello su Twitter a dire commutate la pena, visto che la pena di morte è sempre comunque sbagliata, io condivido al 100%. Ecco, però Amnesty International chiede agli stati della comunità internazionale di intervenire attraverso le loro ambasciate a Teheran. Allora, si può fare qualcosa? L'Italia, che io dico, ripeto, nel 1786 codice leopoldino, la Toscana, il Granducato di Toscana ha abolito la pena di morte, primi al mondo. Vogliamo fare una telefonata? Non servirà nulla magari, ma allora non facciamo nulla, facciamo queste pressioni diplomatiche, le uniche cose che si possono fare. Poi certo l'Iran è uno stato sovrano e se portano avanti la sentenza non possiamo farci nulla, però le pressioni quantomeno sì, forse siamo anche in ritardo, ma fatele, alzate il telefono. Va bene, torneremo lunedì e speriamo, ripeto, siccome in Iran non lo comunicano la data dell'esecuzione, speriamo di avere delle buone notizie e non cattive. Sulla questione invece, torniamo sulle questioni nostre, nostrane, questa storia del tortellino ti sei un po' condannato da solo, con la spesa che racconta molto delle persone. Adesso fanno tutti i fenomeni rispetto al cibo, ma tutti i fenomeni sono quelli che dicono no, io... Ma in realtà era ironico, dicevo, non c'è niente di male nel tortellino di verdure, anzi, insomma, è una cosa anche gradevole. Ho controllato qui dentro, perché il mio problema con i tortellini è che spesso, quasi sempre, c'è il formaggio nel ripieno. Non è che io sia allergico, sono intollerante e poi mi dà fastidio l'idea. Invece lì ho controllato, non c'era formaggio, era quasi tutto addensante. Sì, ho controllato gli ingredienti, è tutto addensante, quindi non mi fa male. Allora, prima di tornare col nostro ospite, sai quanto ha stanziato, notizia di poco fa, Amazon ha stanziato la gratifica natalizia per tutti i dipendenti a causa del lavoro straordinario. Sai quanto ha stanziato Amazon? Quanto ha stanziato? Per ciascun dipendente? Ecco, no, infatti è da dividere. 500 milioni di dollari. 500 milioni di dollari come gratifica natalizia. Da dividere. Bisognerebbe capire quanti sono i dipendenti, però. Certo, certo. Ragazzi, pare fino a 300 euro lordi. Se impiegate a tempo pieno, se lavorano con tu, fino a 300 euro lordi per quelli che fanno le consegne, eccetera. E tutti i dipendenti, insomma. Certo che ragazzi, vabbè. Allora, torna con noi Giovanni Boccù. Buongiorno e ben ritrovato Giovanni Boccù. Buongiorno a voi. Al più grande allevamento in Italia di visoni a Capralba. Ne abbiamo parlato la scorsa volta. Sa che molti ci hanno scritto, chi indignato, chi ci ha fatto riflettere a dire vabbè, ma scusa, allora l'allevamento per fare le bistecche è la stessa cosa, no? Perché quello sì o quello no. E effettivamente io mangio la carne, io non sono vegano, quindi non è che posso dire allora perché uno va a pescare una trota. Però insomma, ci dica intanto le novità. I visoni sono lì, tranquilli? Sì, la situazione è molto grave perché siamo un mese oramai oltre il periodo programmato. Gli animali andavano divisi e c'era il periodo di raccolta. Questo non si può fare perché ci è impedito. Gli animali litigano, si mordono, si fanno anche ferite gravi, alcuni di loro. Scarseggia il mangiare, non riusciamo più a fare una dieta bilanciata e siamo bloccati. Siamo stati estromessi perché è stato sequestrato tutto. Noi non riusciamo a fare niente, niente lì dentro. Sa cosa, Giovanni Boccu, la critica che è arrivata, ma lei ne ha sentite tanto di tutti i colori. Cioè, lei adesso ne sta parlando dicendo poverini, si fanno del male, cioè con la tutela del suo capitale. Ecco, capitale. Però diciamo, alla fine, fine sappiamo a cosa servono. In primis, non vuol mica dire niente. In primis noi guardiamo al benessere degli animali, perché il loro benessere è anche il nostro. Noi viviamo, la raccolta la dobbiamo fare perché? Perché c'è tanta gente che vuole questo prodotto. Sì. È un prodotto inimitabile, è green, non c'è equivalenza al mondo di questa roba, perché altrimenti c'è la plastica che poi va a inquinare i mari. Però non voglio parlare di queste cose, è un problema etico che è meglio lasciar discutere ad altre persone. Io guardo il mio lavoro. Il mio lavoro cerco di farlo bene, cerco di tutelare i miei animali perché sono il mio patrimonio, che adesso me lo stanno distruggendo, ma comunque qualcosa va fatto. Qua è fermo. Noi ecco, non ma è fermo risposte. Nel senso che c'è la minaccia che pende come una spada di Damocle a dire veniamo ad abbatterli. Perché No, è già deciso. L'hanno già deciso. Devono venirli a battere, però non stanno facendo fare a noi il lavoro, perché noi siamo capaci a farlo. Usiamo il metodo giusto. In Danimarca l'hanno voluto fare i veterinari, alla fine hanno chiamato l'esercito, dopo un mese di lavoro hanno capito che non era un lavoro per loro e l'hanno dato in mano agli allevatori. Non capisco perché assieme ai veterinari non fanno fare a noi, che siamo esperti, lo conosciamo da anni, il lavoro come va fatto. Quindi... Ma siamo in attesa, intanto gli animali soffrono perché oramai vogliono essere individualmente messi per gabbia. Questo non si può fare perché bisogna fare la raccolta e lì è bloccato. La raccolta tutto. Cosa vuol dire? Perché l'ha detto due volte, scusi. Il pelting, cioè praticamente noi abbiamo dei riproduttori, questi generano cuccioli, li alimentiamo, crescono, alla fine del ciclo c'è la raccolta e rimangono i riproduttori. Adesso ci sono mamme con i cuccioli, gli ex cuccioli che erano dentro assieme, oramai sono diventati adulti, questi vanno divisi, non si possono lasciare dentro assieme, litigano, non si tollerano. Oramai è il periodo. Certo. Allora, l'aspetto etico c'è comunque in questa questione, ma lei appunto l'ha già affrontato, è che molte persone nel sentirla parlare così a protezione degli animali poi non si spiegano, li protegge, ma poi per poi abbatterli un domani. Ma questa è la questione, insomma, ognuno la pensa come vuole. Mi dice il mercato dove è soprattutto, cioè è estero, è mondiale. Italiano, mondiale. Noi abbiamo sempre, all'inizio vendevamo sul mercato domestico in Italia, poi da oramai parecchi anni, più di 20 anni, vendiamo alle aste e le aste vendono in tutto il mondo. Il mercato è mondiale e guardi che la richiesta è in aumento, il prezzo in Cina, in Russia è già raddoppiato il prezzo delle pelli. Ma tra l'altro c'è una richiesta enorme. Vero, la nostra redazione ha fatto così una ricerca, è vero che un cappotto in visone può arrivare fino a 20.000 euro? 15 guardi, poi lì è questione anche di stilista, la firma, perché non è solo, intanto ci deve essere la qualità può essere classic, velvet 1, velvet 2, velvet 3, sono tutte le caratteristiche del pelo, dovremmo star qua una vita a parlarne, chiaro, noi dobbiamo guardare queste cose qua, cioè la densità, la punta, deve sporgere una lunghezza, l'altra. Noi guardiamo molto la caratteristica di questo, però è il nostro lavoro, perché alla fine la gente non ci chiede l'animale vivo come il cane e il gatto, ma ci chiede la pelle e noi produciamo la pelle. E così avviene per tanti lavori. Voglio dire, su questo, Leonardo, c'è una richiesta mondiale, c'è la legge brutale della domanda e dell'offerta. Il signor Giovanni Boccu fa un lavoro totalmente legale. Che la legge legale lo consente, noi li alleviamo per avere la pelle. Insomma. Poi c'è sempre il discorso etico di chi non è d'accordo. Ma scusi, guardi che è un prodotto green, ecologico, è meglio vestirsi di plastica e poi inquinare i mari, come sta avvenendo, o è meglio vestirsi con prodotti nostri? Lei insiste molto su questa cosa green. Si può scegliere una terza via, una terza via, si può scegliere un'altra possibilità. Non vorrei adesso focalizzare l'argomento diverso. Qui c'è un problema grave che bisogna che venga risolto. La situazione non può andare avanti così. Sicuramente è una questione da risolvere, anche perché poi c'è l'aspetto del lavoro. Velocemente. No, questo sì, perché... certamente, poi è un capitale, quindi. Però Giovanni Boccu, facciamo così, ci riaggiorniamo, noi vogliamo raccontarla un po' a puntate, nel senso a seguirla in questa sua vicenda che per molte effettivamente ha anche dei lati controversi, è innegabile, poi li possiamo, come dire, vabbè, ma non parliamo, tralasciamo l'aspetto etico che c'è per molti. È predominante, per altri c'è l'aspetto imprenditoriale, l'aspetto umano di un imprenditore che non sa cosa sarà del proprio destino, del proprio capitale, come per molte aziende in questo momento. Torneremo, al momento è congelata la situazione come qualche giorno fa. Dai, andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Rock duro. Six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Rock duro. Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see. Allora, abbiamo scatenato il solito putiferio, ma ragazzi, cioè, si può parlare delle cose anche con, ospitando delle persone le quali magari si condivide il pensiero a metà o ci si interroga sull'aspetto etico, e lo facciamo con Giovanni Boccu e torneremo a chiamarlo. Quelli che mi scrivono, se gli dai la parola non ti ascolto più, ma perché? Ma siete... Perché avete questa censura dentro, ormai dentro di voi, a stabilire cosa, ecco, chi ha diritto di parlare e chi no? Io lo richiamerò ancora, che non vuol dire che la pensi come lui, ma è un imprenditore che porta avanti il suo lavoro. Comunque, cosa succederà adesso ce lo dice il ministro Bonetti. Ministro, buongiorno e grazie di essere qui nuovamente. Buongiorno a lei, caro Milan. Grazie. È un piacere rispondere alle sue domande. Bene, bene. Siamo... Lei sa che arriverà, sì, arriverà il nuovo DPCM natalizio. Sì, e infatti siamo tutti in attesa di capire che cosa succederà, perché, ministro, se ci può dare qualche anticipazione, noi le siamo grati. Per prima cosa vorrei precisare che nell'ambito di un tavolo informale, ma sinergico, al quale partecipano tutti gli attori coinvolti, abbiamo coltivato un proficuo dialogo con le regioni, che ci ha portato a definire un piano di attuazione del disegno riformistico connesso alla nostra esperienza pregressa, senza però dimenticare l'implementazione di nuovi assiomi legislativi ancora in corso di definizione, che andranno a valorizzare una auspicata evoluzione verso una situazione di sostanziale blateranza. Con questo voglio dire che nel nuovo DPCM, partendo dall'individuazione delle variazioni della curva epidemiologica, abbiamo individuato le nuove disposizioni che riguardano lo sci. Lo sci. Bene, bene, siamo tutti lì. Un tema caldo, nonostante le temperature di montagna, che sembra farsi carico. Fate l'ironia, ministro. Distanza da un... Cioè, qua c'è gente che pende dalle sue labbra adesso per capire che cosa succederà. Lei fa i risolini, scusi, ministro. Distanze dominanti nel dibattito pubblico del paese. Pertanto, con riferimento al piano più strettamente normativo, abbiamo deciso di mantenere anche per lo sci la regola... Quale regola? Attenzione, c'è una regola per lo sci. Adesso andiamo a sviscerarla con il ministro Bonetti. La regola dei 200 metri. 200 metri? Come 200 metri? Esatto. Si può sciare solo a 200 metri da casa, oppure a 200 metri di altezza, se si abita in un palazzo molto alto. Quindi Mauro Corona e Donald Trump, per esempio, potranno sciare. Ah, ecco, perché uno in montagna e l'altro in un palazzo molto alto, sì, la Trump a Palazzo. Grazie, scusi se l'ho dovuta spiegare. Ma... nel rispetto di un'attenta valutazione dei 21 parametri decisi dal Ministero della Salute insieme al Consiglio Superiore della Sanità, aggiungo sì, che nelle regioni rosse saranno aperte solo le piste nere per scoraggiare gli sciatori inesperti che vanno in vetta solo in cerca di camini e vimbrulè. Allo stesso modo, se una regione passerà dal giallo al verde, potrà aprire le piste di ogni grado di difficoltà. A verde non c'è. Saremo ormai però avanti in estate, probabilmente si sciolta la neve, ma mi lasci dire che questo è solo un problema di percestuminanza. Sono consapevole che è un sacrificio, percestuminanza, cioè? È un sacrificio, lo voglio dire con forza, non lasceremo indietro nessuno e con l'impegno di tutti ne usciremo. Dobbiamo solo tenere duro ancora per qualche mese in attesa del vaccino e a questo proposito vi state sicuramente chiedendo quando arriverà il vaccino. E come no? Tutti se lo chiedono, Ministro. La ringrazio per la domanda. Non era una domanda, l'è fatta lei. Questo virus corre velocemente. Quello che noi possiamo fare è ristabilire una dinamica in grado di tradurre in concreto gli obiettivi di lungo periodo oggi, più che mai necessari, per accelerare uno sviluppo non precostituito, questo attraverso una stabilità degli orientamenti giurisprudenziali che possano fungere da decisiva manifestazione del principio di allombramento derupante. Quindi, sostanziando le mie affermazioni, vado a elencare le attività produttive che rimarranno aperte. Attenzione, prendiamo nota, Ministro. Enoteche, ma con il divieto di vendere i rosé. Ma perché? Scusi, sa, la seconda domanda è sempre la più importante, insegnano nei corsi di giornalismo. Liutai. Potrà rimanere aperti? Liutai. Ma? Che abbiano ridipinto le pareti da poco, purché non di giallo spugnato. Chissà perché sto giallo spugnato. Infine, okay. Chi è che può rimanere aperto? Attenzione, non ho capito bene i motivi. I negozi di abbigliamento che abbiano almeno due commessi di origine portoricana. Perché portoricano? Ecco. È così, è il DPCM, ragazzi. Sono scelte di buon senso che crediamo possano aiutarci a contenere l'epidemia anche dal punto di vista della manzupalla sillomatica. Permettetemi di aggiungere una piccola cosa, cercherò di essere breve, ormai siamo in chiusura. Sì, prego, abbiamo un minuto. L'incidenza epidemiologica fa emergere l'esigenza di un rafforzamento delle strutture deputate per garantire nuove proposizioni valoriali condivise da tutta la comunità. Quindi, in un contesto di forte disorientamento, ma nel rispetto dell'assetto sociologico dominante, quale premessa indispensabile e condizionante di un nuovo processo decisionale, possiamo affermare che diventa necessario ipotizzare e perseguire scenari in cui trovino posto nuovi frangipaldi sarometrici. Nuovi? Ed è proprio per questo motivo che nel nuovo DPCM, che entrerà in vigore a partire da sabato, verrà introdotto un nuovo provvedimento che vieterà a tutti i conviventi di entrare in bagno quando c'è già dentro qualcuno. Questo vale anche per chi di solito dice devo solo prendere una cosa. Questo secondo me è il provvedimento più equo e più giusto. Rinunciamo a prendere una cosa oggi per prendere più cose domani. Naturalmente sempre con l'intento di non lasciare indietro nessuno. Grazie Ministro Bonetti. Che lei abbia fatto chiarezza forse è un pochino esagerato, ma ci saranno altre occasioni per naturalmente. La ringrazio per la domanda. Ringrazio anche Leonardo Manera che ha ricevuto la foto di tanti tortellini di verdura vegetariani e senza glutine da una mamma che ti invita a mangiarli, li ha fatti per la figlia, anzi c'è anche una mamma che ti saluta tanto. Va bene. Grazie mamma. Grazie. Ciao. Uno, nessuno.